Allora, buonasera a tutti, cominciamo la presentazione del libro di questa sera, La pazzia dimenticata, di Adriana Pannitteri, L'asino d'oro edizioni. Un libro che è un viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari. Adriana è una giornalista, un mezzo busto della Rai. La vediamo intera questa sera, esatto, e insieme a lei illustri ospiti che ci parleranno anche delle loro esperienze professionali riguardo a questo tema abbastanza delicato. Io comincio qui alla mia sinistra con Donatella Poretti della Commissione Parlamentare d'Inchiesta OPG, Niccolò Trevisan, psichiatra e psicoterapeuta, e Franco Scarpa dell'unità operativa complessa salute in carcere. Naturalmente Adriana nel mezzo, e Adriana è un po' il centro di questo viaggio, cominciato già con un'altra pubblicazione diversi anni fa, e oggi approdato a quella che è un po' una ricerca di ciò che avverrà di questi ospedali psichiatrici giudiziari. Io non mi trattengo oltre perché, insomma, credo sia il caso far parlare gli ospiti più competenti di me in materia. Vi dico solo che è un libro interessante per quello che tira fuori, è una sorta di reportage, ma non solo, è proprio un vero viaggio in questi luoghi che molte volte vengono dimenticati, se non in casi in cui realmente purtroppo si incontrano questi luoghi, o comunque si deve trattare di ospedali psichiatrici giudiziari. Ecco, è interessante capire qual è la realtà che c'è oggi e che cosa si sta facendo per questi luoghi. C'è in corso tutta una legge per rivalutare o chiuderli, insomma, poi ne parleranno i nostri ospiti. Io darei immediatamente la parola a Franco Scarpa dell'unità operativa complessa salute in carcere per dirci due parole innanzitutto, interventi brevi, siamo in tanti, riguardo questo testo, La pazzia dimenticata. Se potete prendere lì facciamo un primo giro di interventi e poi cominciamo a entrare nelle pagine del libro. Va bene, buonasera prima di tutto e grazie a Adriana che ha voluto avermi come partecipante alla presentazione di questo libro. Premetto prima di tutto che sono psichiatra, direttore, responsabile della struttura sanitaria dell'ASL 11 che lavora all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Come forse operatori addetti sapranno, dal 2008 l'assistenza sanitaria in tutti gli istituti penitenziari, in tutti i carceri, è transitata al Servizio Sanitario Nazionale. Più che delle esperienze, vorrei parlare forse un'occasione, e il libro di Adriana è abbastanza pungente su questi aspetti, di coglierei l'occasione per spezzare un po' di lance, nel senso, e forse anche un po' fare la parte del bambino che dice il re è nudo. Finora ci siamo cullati dal 1975 su queste due parole, ospedale psichiatrico e giudiziario, che così a mente al massimo delle cose evocano l'immagine dei cosiddetti pazzi criminali. E questa è stata l'immagine che ci ha portato avanti per secoli. Pensate che queste strutture esistono dal 1872 per una necessità di sgomberare, uso veramente in maniera molto chiara la parola sgomberare, dal carcere le persone che davano fastidio. Dal 1930 con la, come si dice, evidentemente si è durato 82 anni questo codice penale, anche se è sempre, come dire, vituperato, codice fascista, però evidentemente serve a qualcuno, perché per 82 anni, 83 anzi, continua a esistere e continua a governare questa struttura, cioè le misure di sicurezza, che sono misure di controllo per i cosiddetti pericolosi, nello specifico i pazzi criminali pericolosi. Pensate, proprio per sgomberare il campo di queste ipotesi, un ministro della sanità di tanti anni fa, non dico quante altrimenti rischio anche di dire quanto sono, da quanto tempo ho a che fare con questa realtà, però una volta un ministro della salute disse, allora della sanità, disse: i manicomi criminali che problema sono? Sono pieni di delinquenti, di camorristi, mafiosi che fingono. Aveva colto solo una piccola parte del problema, aveva dimenticato che a fianco a questi delinquenti, criminali, camorristi che entravano per perizie compiacenti e per giudici che evidentemente non se ne accorgevano di queste anomalie, a fianco a questo 10% di realtà delinquenziale c'era un 90% di malati veri. Bene, la Commissione Marino, che è intervenuta in maniera egregia su questa realtà, ha posto l'accento sul 95%, perché poi in questo periodo di anni la percentuale di delinquenti, criminali, camorristi, mafiosi era diminuita decisamente. Ha colto l'attenzione su questo 95%, però ci siamo un po' tutti dimenticati, e qui faccio un po' la parte del re nudo. Queste due parole, ospedale psichiatrico, giudiziario, nascondono una realtà molto semplice: è un carcere, era, lo è, rischia di diventarlo e di essere ancora di più se non si interviene in maniera corretta, coerente e spinta, e in maniera decisa per operare un superamento vero, non con le leggi ma con concrete azioni. Mi limito a dire una sola cosa e poi chiudo, visto che sono interventi brevi. Sono venuto di corsa da Genova e con molto piacere, perché sono andato a fare un po' il giro tra Toscana e Liguria delle strutture che stanno accogliendo le persone all'uscita dall'ospedale psichiatrico giudiziario. Bene, io mi sono veramente meravigliato da un lato e nello stesso tempo contento nello stesso tempo, perché ho visto persone che fino al giorno prima, magari fino a un mese fa, erano a Montelupo chiuse, sbarrate nelle celle, da una certa ora in poi e altri orari sottoposti a regolamenti penitenziari. Le ho viste libere, girare liberamente, con porte aperte, con lettini, letti normali e non certamente letti di tipo carcerario. Le ho viste aprire le finestre, aprirle, non aprirle e trovarsi un muro di sbarre davanti. L'ho visto aprire le finestre e affacciarsi. Sotto c'erano anche 20 metri o 10-15 metri di spazio, e vivono normalmente. Si può fare, forse questa è la prima cosa, si può fare, ma anzi si deve fare. E parliamo poi dopo di queste proroghe che rischiano di non far più. Niccolò Trevisan. Sì, buonasera. Grazie Adriana, ha scritto un libro bellissimo secondo me. Mi colpiva anche quello che diceva Franco. Sì, chi lavora nel campo della salute mentale, chi si occupa di questo tipo di molto particolare di pazienti, ha una visione, diciamo, di uno spaccato molto particolare della malattia mentale, ma che va trattato, come dire, in un modo con un occhio speciale, direi. Innanzitutto quell'occhio che ho visto da parte di Adriana nell'affrontare questo libro. Ci vuole, secondo me, voglia di conoscere, ci vuole passione per affrontare questa materia. Ci vuole passione per conoscere chi sta dentro gli OPG, ci vuole passione per entrare in questi luoghi, ci vuole voglia di conoscere che cos'è questa pazzia, perché come sapete non tutti i malati commettono reati, anzi generalmente sono vittima. Quei pazienti che purtroppo transitano negli OPG, in queste strutture dove si ammalano, e se non fosse per degli esperti e delle persone molto molto in gamba non potrebbero sostenere molti mesi in questi luoghi, beh, allora questi malati hanno delle caratteristiche particolari. Non a caso Franco parlava di pazzia e lui non li ha definiti folli, perché il pazzo, lo dice la parola, è il sofferente per eccellenza. La parola deriva da una radice che è pati, che viene dal verbo pasco, che è la sofferenza, il malato che soffre e che sta male. E a questo concetto di malato sofferente si è aggiunta poi, attraverso un passaggio nella letteratura del Cinquecento, il discorso che è un malato che può commettere atti violenti. E badate bene, non è il folle, perché il folle è la persona che ha la testa vuota, è la persona bizzarra, è la persona al di fuori della norma, anche al di fuori della norma sociale, ma non è violento. E bisogna stare attenti a confondere queste due categorie, la follia con la pazzia, perché folli sono anche i geni, ma non lo sono i malati. E nel gergo comune, se non si differenziano bene queste due tipologie, una persona che magari sta male potrebbe pensare, beh, anch'io potrei fare quello che... anch'io potrei uccidere, anch'io potrei essere vittima di un raptus. Mi ricordo una mia paziente che era venuta per una crisi postpartum e che seguiva in televisione un certo tipo di trasmissioni che parlavano della storia di Cogna. Beh, quella persona mi disse che era angosciatissima perché una madre per un raptus potrebbe uccidere la propria figlia, il proprio figlio. Beh, questo assolutamente non è vero, perché la follia non è la pazzia. Siamo tutti un po' folli, ma i pazzi sono proprio un'altra cosa. E con questo passerei la parola. Donatella Poretti, e poi cominciamo con le prime domande all'autrice. Io non vorrei... Vado piano piano. No, prendi questo. Okay. No. Ce la faccio? Se no prendi questo. Grazie. Io sono Donatella Poretti, sono stata presentata come commissione OPG, in realtà è una commissione che era una commissione d'inchiesta del Senato della Repubblica, essendo finito la legislatura scorsa e entrata in funzione una nuova legislatura, speriamo che ci sia una nuova commissione che si occupi degli ospedali psichiatrici giudiziari, o non speriamo, speriamo anzi che si dia seguito alla legge e che ci si occupi anche con altri strumenti. Quindi io ero senatrice radicale e facevo parte della commissione d'inchiesta più mediaticamente chiamata la commissione Marino, che si è occupata, tra le varie cose, della sanità italiana, anche della sanità psichiatrica, e in una inchiesta appunto che si occupava dell'assistenza o della cattiva assistenza o anche dei casi appunto di buona assistenza psichiatrica sul territorio, un po' casualmente la commissione si è imbattuta negli ospedali psichiatrici giudiziari. E sono luoghi che, una volta che uno li incontra nella propria strada, nella propria vita, non si può rimanere, non si può non essere coinvolti da questi luoghi, da queste strutture e dai pazienti e dagli internati che ci sono dentro. È un mondo che in qualche modo ti prende. Io la prima volta che sono entrata in un ospedale psichiatrico giudiziario, era l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, la prima volta che ho visto il dottor Scarpa era più o meno verso il 1996. Come radicali avevamo un unico senatore, Pietro Milio, che aveva dei parenti a Firenze. Io gli dissi, beh, sai che ho saputo che c'è una cosa strana, che non so se è un manicomio, eppure i manicomi erano chiusi, se è un carcere, chissà che. Ci presentammo alle 8:30 di mattina, che come appunto parlamentare poteva fare le visite ispettive, e scoprimo questa realtà incredibile. Ci sono delle persone che stanno dentro un carcere perché sono malate. Ecco, perché poi è questo il nodo di fondo. Delle persone che in alcuni casi hanno commesso un reato e sono state condannate, poi hanno avuto dei problemi di follia che si sono manifestati durante la loro detenzione in carcere, e proprio per questi problemi sanitari e psichiatrici finiscono negli ospedali psichiatrici giudiziari. Altri che sono stati semplicemente denunciati o comunque hanno avuto un problema con la giustizia, e senza nessuna condanna, a nessuna pena, fuoriescono dal circuito giudiziario proprio perché la malattia diventa prioritaria per lo Stato, che in qualche modo li avrebbe dovuti condannare o assolvere per il loro capo di imputazione, ma fuoriescono dal sistema giudiziario, e proprio perché la priorità diventa la malattia psichiatrica vengono mandati in questo luogo che è un carcere. Quindi già la prima follia balza agli occhi, se una persona è malata e per quello io Stato me ne prendo carico e non lo mando, non lo mantengo in carcere o non lo giudico neanche, perché qui appunto entriamo poi nella legge che ritiene che la persona se ha commesso un reato, viene accusata di aver commesso un reato, scatta fuori una perizia psichiatrica che gli dice che questa persona non era in grado in quel momento di intendere quindi e di volere, automaticamente lo Stato italiano non lo condanna, non la condanna a nessuna pena, non c'ha un carcere da scontare, e proprio per questa priorità che viene data alla malattia viene però mandata in carcere a non scontare una pena, ma un internamento che può essere da 2 all'infinito. E il collegamento tra questa pena da 2 anni all'infinito non è assolutamente legata al tipo di reato iniziale per cui la persona è entrata in questo circuito infernale, ma è legata alla sua alle sue condizioni, e poi è legata ancora di più a quella che è la possibilità che il territorio, che una famiglia, che una comunità in qualche modo se ne faccia carico e la riaccolga e la porti fuori da questo circuito infernale. Le storie che poi si conoscono sono le più bizzarre e appunto le più inquietanti. Io le proroghe che vanno di anno in anno, le persone che sono state condannate veramente all'ergastolo bianco senza nessuna condanna reale, effettiva. Non scorderò mai una persona anziana, un vecchietto molto simpatico a Secondigliano, a Napoli, che adorava vestirsi da donna, e per questo è stato più di 30 anni in un carcere, perché appunto li chiamiamo ospedali psichiatrici giudiziari, ma fanno parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con tutti gli annessi e connessi, con gli orari, per le visite, con le domandine, con tutto quello che è il sistema penitenziario. Ora, se già le nostre carceri italiane sono una sorta di discarica sociale della società, dentro non è che ci stanno bancarottieri o chissà che, ci stanno fondamentalmente persone legate a piccoli reati collegati alla tossicodipendenza, alla prostituzione, allo spaccio e all'immigrazione. Questa è più o meno all'ingrosso la popolazione penitenziaria italiana, una sorta appunto di problemi sociali non risolti e non affrontati, o peggio ancora affrontati da leggi che sono criminogene, nel senso che più che avere un crimine lo creano di per sé stesso. Ecco, se già le carceri italiane sono queste, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono una sorta di discarica della discarica. Chi proprio in qualche modo non riesce a vivere nella società finisce lì dentro. Moltissimi sono denunciati dagli stessi familiari, una sorta di che poi soffrono anche di sensi di colpa ad aver finito dentro un proprio familiare che non riescono poi a far più riuscire, perché poi una volta che si entra facilmente ma si esce con enorme difficoltà, e molti sono denunciati dagli stessi familiari, casomai per tentata estorsione, il tossicodipendente che cerca continuamente soldi a casa, minaccia la mamma. Queste sono le storie più tristi, ma di cui sono pieni gli ospedali psichiatrici giudiziari, e come ultimo grido d'allarme rispetto a una società che in qualche modo non aiuta quelle persone, alla fine si ritrovano a fare una denuncia e a vedere casomai un figlio a un parente che finisce in un ospedale psichiatrico giudiziario e non si riesce a uscire. so che vado veloce perché poi ci ritoccherà. Di questo aveva cercato di occuparsi una commissione d'inchiesta appunto presieduta da Marino, se ne era occupato dal Presidente della Repubblica a una commissione d'inchiesta del Senato, all'intero Parlamento, facciamo eccezione per la Lega Nord che non aveva votato la legge ma per altri motivi di cui non ci dilunghiamo, insomma un Parlamento a stragrande maggioranza si era commosso a vedere certe immagini, a sapere certe cose. Abbiamo fatto una legge, abbiamo incredibilmente trovato i soldi per finanziarlo, che in questo periodo credo che sia un miracolo. E poi una volta che siamo arrivati alla scadenza in cui appunto si dovevano chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari, con italica soluzione ci siamo ovviamente inventati la proroga, perché poi credo che alla fine delle discariche convenga tenerle aperte piuttosto che occuparsi e preoccuparsi e farsi carico di 1000 persone. Si decide anche di non utilizzare i milioni di euro che si erano messi da parte, perché io credo che delle volte faccia anche comodo lasciarli aperti. Siamo entrati a gamba tesa proprio nel tema del libro. Io vorrei fare un piccolo passo indietro però, perché adesso parliamo con l'autrice e dobbiamo cercare di capire anche il perché ha affrontato questo tema. Proprio nel primo capitolo, il 16 marzo del 2011, viene fatto vedere un video ai giornalisti, e la nostra autrice, come abbiamo detto, giornalista, si era già occupata di ospedali psichiatrici in qualche maniera, ora ce lo facciamo raccontare, già nel 2006 credo, anche prima, sì, 2006. Insomma, viene fatto vedere questo video e da qui la commissione fa alcuni passi. Magari non tutti sappiamo, insomma, non tutti sapete di che cosa si è occupata questa commissione e a che cosa vuole portare, perché stiamo parlando di una commissione del senatore Marino, però magari non abbiamo troppo chiara la visione del lavoro della commissione. Nel libro La pazzia dimenticata viene spiegato questo, e Adriana ha fatto questo lungo percorso spiegandoci che cosa è avvenuto, guardando quella realtà, parlando anche con chi è all'interno di questi ospedali, e insomma il viaggio comincia questo 16 marzo del 2011, in cui Adriana comincia a camminare e a cercare di vedere un po' la luce di questa commissione, dei lavori che stanno avvenendo. Oggi sappiamo che il finale è un po' diverso da quello che è stato prospettato, però ne parliamo adesso con Adriana. Sì, grazie, buonasera, insomma grazie a tutti coloro che hanno avuto voglia di arrivare fin qui in un giovedì di Pasqua, quindi argomento delicato, argomento complicato. Io in realtà vorrei già dire tantissime cose, anche le sollecitazioni proposte dalla senatrice Poretti per me sono, come dire, oro, perché questo è un argomento davvero complicato, nel quale ci possono essere anche visioni e suggestioni diverse, però questo magari lo affronteremo poi in un secondo giro. Adesso raccolgo l'invito a fare il viaggio. In realtà il mio viaggio era cominciato un po' prima del 2011, perché di fatto era iniziato nel 2005, nel 2006, quando io mi ero occupata delle madri che uccidono, e quindi ero entrata nell'ospedale psichiatrico giudiziario, quindi già un ospedale psichiatrico giudiziario nel 2006, che è quello di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, nel quale sono appunto ricoverate per lo più le donne, solo lì ci sono le donne, e in particolare ci sono appunto queste madri che hanno ucciso i loro figli. L'argomento che mi interessava di più, quindi insomma non vorrei raccontare tutto quanto, però l'argomento che più mi colpiva era proprio quello delle madri e delle donne che avevano ucciso per malattia, e quindi donne che erano finite in un ospedale psichiatrico giudiziario perché ritenute incapaci di intendere e di volere, quindi come tali donne appunto malate, la pazzia, questa era proprio la diagnosi, e quindi erano state ricoverate in questo ospedale psichiatrico giudiziario. In realtà poi partivamo da molto prima, partivamo poi dalla grande attenzione mediatica che c'era stato sul caso di Anna Maria Franzoni, quindi il delitto di conia, e poi sappiamo che in realtà Anna Maria Franzoni è stata dichiarata capace di intendere e di volere, quindi non è finita in un ospedale psichiatrico giudiziario, bensì in un carcere. E qui c'è la grande distinzione che magari molti del pubblico forse non sanno, perché poi in realtà mi sono accorta che anche parlando con diversi psichiatri, ma anche in teoria con addetti ai lavori, mi sono resa conto che questo è un po' un argomento misconosciuto, ovvero la divisione che c'è, questo doppio binario che c'è nel nostro codice penale, per cui in sintesi chi commette un reato e viene ritenuto capace di intendere e di volere sulla base di una serie di elementi che poi sono stabiliti dal nostro codice penale, ma anche dalla dottrina, dalla giurisprudenza, chi quindi viene ritenuto capace di intendere di volere va in un carcere, sconta la sua pena, che ha un inizio e una fine. Chi viene ritenuto incapace di intendere e di volere viene prosciolto, quindi non va a giudizio, viene considerato anche semi-infermo, quindi lì in quel caso la pena viene ridotta. Comunque chi è ritenuto incapace di intendere di volere per malattia mentale, non per cattiveria, ma per malattia, non sconta la pena perché non va proprio a giudizio, e secondo il nostro sistema giuridico, giudiziario, va in un ospedale psichiatrico giudiziario. In realtà non necessariamente, e qui ci soccorrerà lo psichiatra forense che si occupa di questo, non necessariamente chi è ritenuto incapace di intendere di volere deve andare in un ospedale psichiatrico giudiziario, perché in realtà ci sarebbero anche delle possibilità intermedie, no? Si potrebbe andare in una comunità, si potrebbe essere assegnato ai servizi territoriali, quelli previsti dalla legge 180 del 78, che appunto si occupava di malattia mentale, quindi ci potrebbero essere delle forme intermedie. Allora, comunque, la magistratura che cosa fa? In un certo caso specifico valuta anche la pericolosità sociale di quella persona, e a quel punto questo connubio tra incapacità di intendere di volere e pericolosità sociale molto spesso determina l'invio in un ospedale psichiatrico giudiziario, dove, come sottolineava la senatrice Poretti, il problemino è che si dovrebbe andare in un ospedale psichiatrico giudiziario per essere curati, mentre molto spesso appunto la cura non c'è, ma c'è piuttosto appunto la detenzione, l'internamento, e soprattutto poiché non c'è il fine pena ma c'è una misura minima della pena, anzi non è pena, in realtà si chiama casa di cura, vabbè, casa misura di sicurezza, insomma, comunque la misura minima è 2, 5, 10 anni, poi molto spesso ci sono delle proroghe e quindi queste persone finiscono per restare in un sistema che è un sistema appartato rispetto alla società e finiscono per essere dimenticate. Io non vorrei dire tutto, però qui segnalo che le contraddizioni sono enormi, perché io non ci vedrei niente di strano se quando una persona è incapace di intendere di volere viene assegnata a un ospedale. Non ci vedrei nulla di strano, poiché se quella persona ha commesso un reato per malattia, credo che debba essere diritto e dovere di una società civile prendersi cura di questa persona, quindi affidarla a un medico competente affinché appunto possa essere curata più che espiare la propria pena. Il problema è che in questi ospedali psichiatrici giudiziari, e qui queste sono, diciamo, le fotografie scattate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, sono state veramente impietose e anche realistiche. Il problema è che in questi ospedali psichiatrici giudiziari, come sottolineava la senatrice Poretti, c'è un po' di tutto, e cioè ci sono persone che appunto hanno commesso gesti bizzarri e che non si sa per quale motivo sono finite in ospedale psichiatrico giudiziario, persone denunciate dai loro stessi parenti per aver commesso qualche gesto di bizzarria ulteriore e destinate sempre all'ospedale psichiatrico giudiziario, ma ci sono anche in realtà molte persone malate, seriamente malate, perché questo credo che ce lo può confermare il dottor Scarpa, per le quali evidentemente l'organizzazione però attuale dell'ospedale psichiatrico giudiziario non è buona, non è sufficiente, non è tale da darci la garanzia che un paese civile si occupi delle persone che per malattia hanno commesso reati. Io qui mi fermerei, no, nella prima fotografia scattata, perché quando qualcuno dice che andrebbe modificato il codice penale cancellando il doppio binario e quindi eliminando il problema della non punibilità, io non sarei del tutto d'accordo, perché se poi anche una persona che è incapace di intendere e di volere viene destinata al carcere, viene comunque abbandonata, non ha un minimo di assistenza psichiatrica, io lì a quel punto insomma mi vengono un po' i brividi, e quindi direi che il rischio è che eliminando il sistema previsto dal nostro codice penale e non pensando a qualcosa di alternativo ci sia un'ulteriore doppia condanna per chi ha commesso un reato per malattia. Però forse magari facciamo un altro giro e poi andiamo alle conclusioni. Sì, io cercherei di capire magari la commissione. È stato proposto un lavoro della commissione, cioè quindi che cosa... Scusate, io posso alzarmi solo un minuto per una cosa? Lo so che è brutto. Hai il permesso, Adriana. E la commissione comunque ha avuto, ora sappiamo che ha prorogato questi lavori e cercheremo di capire che cosa insomma succede, però che cosa voleva fare nello specifico, i soldi che ha stanziato sono per fare cosa? Cioè questa commissione presieduta dal senatore Marino. Allora, tecnicamente una commissione d'inchiesta non è che fa interventi di tipo legislativo, quindi la commissione d'inchiesta ha fatto un'inchiesta. In particolar modo, appunto, come raccontavo prima, aveva fatto un'inchiesta sull'assistenza territoriale psichiatrica e nel 2010, a luglio, è entrata nel primo ospedale psichiatrico giudiziario a Barcellona, a Pozzo di Gotto. E lì sono rimasti tutti atterriti gli altri componenti della commissione. Io li avevo già visti, anzi già stavo cercando a modo mio di fare le pressioni anche sulla commissione sanità per cercare di dar seguito a quello che ricordava prima il dottor Scarpa, cioè al DCPM che diceva attenzione, l'assistenza sanitaria in carcere dal 2008 dipende dalle regioni, fa parte dell'assistenza penitenziaria, e gli ospedali psichiatrici giudiziari vivevano questa ancora più doppia ambiguità di essere carceri ma di essere luoghi, presidi sanitari, di essere ospedali, quindi l'ambiguità degli OPG era ancora più devastante rispetto alla sanità penitenziaria normale. Dalla prima visita ci siamo, come si dice, appassionati e abbiamo fatto un giro di tutti e sei gli ospedali psichiatrici giudiziari. A quel punto, visti con i nostri occhi, ci siamo detti, come commissione d'inchiesta perché non documentarla non soltanto con lo scritto, che è solitamente il metodo per le commissioni parlamentari di fare delle relazioni scritte, poi anche dei bei discorsi in Parlamento, ma documentiamolo per una volta con delle riprese video. E quindi abbiamo fatto il secondo giro con dei cameraman e interviste, visite e quant'altro. Allora, gli ospedali psichiatrici sono sei, facciamo la mappa. C'è Castiglione delle Stiviere, che è il caso a sé, perché è l'unica struttura che è completamente sanitarizzata, dove c'è un muro di cinta che in realtà in alcuni casi è un vero e proprio è soltanto non è neanche un muro, insomma è soltanto una recinzione, c'è un cancello, non esistono agenti penitenziari, non c'è neanche un vigilante, neanche un tipo di sorveglianza privata, non c'è assolutamente nulla se non alla reception chi ti apre e chi ti chiude, ovviamente. E a Castiglione delle Stiviere c'è l'unico reparto femminile. Noi donne siamo in generale meno criminali degli uomini, e a maggior ragione anche per quanto riguarda le folli e sopra la cosa più, lo dico ridendo, le ospiti femminili degli ospedali, anche perché è per certi versi quello che è la parte più triste, perché effettivamente sono quasi per lo più sono donne che hanno ammazzato o i propri figli o i propri compagni, quindi è davvero il luogo forse più triste di tutto questo aspetto degli ospedali psichiatrici giudiziari, e sono persone che non sono pericolose per la società, lo sono stati per quelle che sono state le loro vittime, ma non è che era purtroppo quella la persona che hanno ucciso perché per qualche motivo perché io non sono psichiatra e non riesco a indagare purtroppo sul cortocircuito che può avvenire nella testa di una persona, ammazzare il proprio figlio credo che sia peggio che uccidere se stessi, insomma credo che sia la cosa peggiore che una donna possa fare. Però a Castiglione delle Stiviere ci sono quindi sia gli ospiti uomini che le uniche donne, e è il caso a sé, è solo sanità. E lì si è, nonostante la legge vigente, si è riusciti a ottenere, e da anni che è così Castiglione delle Stiviere, anche quando era in un'altra struttura che era nel centro della città, grazie a una convenzione con la regione Lombardia, e quindi è solo esclusivamente sanità. Scendendo giù si arriva a Reggio Emilia. Reggio Emilia è un carcere a tutti gli effetti, perché nella periferia di Reggio Emilia c'è una struttura tipica penitenziaria delle carceri degli anni 90, e c'è due ingressi: da una parte c'è il carcere e dall'altro ingresso c'è l'ospedale psichiatrico giudiziario, uguale al carcere. Lì c'è una condizione abbastanza dignitosa, perché è un carcere degli anni 90, quindi è abbastanza recente. Trovammo un internato che fra l'altro era di origini fiorentine, che era contenuto da una settimana perché non riuscivano a trovare lo psicofarmaco adatto che facesse effetto, e con tanto di pannolone e di tubino per fare la pipì, quello lì era lì da una settimana e non in attesa appunto di vedere magnifici sorti degli effetti degli psicofarmaci, e quello stava lì chiuso senza un campanello e senza nessuno che lo guardasse fisicamente. Quindi incrociamo le dita che non gli succedeva, che non gli fosse successo nulla, perché non c'era possibilità. Fra l'altro dicevano che c'era una doppia chiave, perché siccome era manipolatore il personaggio, non potevano mettergli soltanto un infermiere a guardarlo, ma c'era bisogno dell'agente penitenziario che aprisse e chiudesse la porta della stanza di contenzione, proprio perché, siccome era manipolatore, avrebbe potuto manipolare l'infermiere che l'avrebbe sciolto, e a quel punto chissà che cosa sarebbe successo. Poi, quella è una fotografia dell'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia. Scendendo ancora si arriva in Toscana, dove a Montelupo Fiorentino, bellissima villa medicea, ci sta il dottor Scarpa, ci stanno gli uffici, e poco più là invece ci stanno gli internati. Io l'unica cosa che dico è che ci sono stata come mio ultimo giorno da senatrice il 14 di marzo, e mi sono consolata perché finalmente, dopo tanti soldi investiti, chiusure fatte dalla commissione d'inchiesta del Senato, le condizioni all'interno di Montelupo Fiorentino sono finalmente dignitose da un punto di vista della struttura. Ma la prima volta che ci siamo ritornati con la commissione, o meglio, addirittura per darvi il senso, la seconda volta, quando ci siamo tornati con le telecamere e ci siamo divisi, il senatore Marino, che non è, voglio dire, l'ultimo degli sprovveduti, è un medico, è un chirurgo, mi ha detto: bene, all'Ambrogiana vacci te, perché io non ho voglia di sentirmi male. E l'Ambrogiana, io credo che sia, è una vergogna della Toscana, della sanità con i pareggi in bilancio, della sanità che ha abolito la pena di morte, eccetera, eccetera. L'Ambrogiana, e non voglio mettere in croce il dottor Scarpa, ma vedere la muffa, sentire la pipì per terra, vedere lo schifo in cui era ridotto quell'ambiente, io che sono toscana me ne vergognavo e me ne vergogno tuttora, e le immagini si sono viste. Le immagini non mandano odori, e gli odori erano peggio di quelle delle immagini che c'erano. Ora la situazione è dignitosa. Ora la situazione è dignitosa, però ci è voluto di far vedere quelle immagini, perché se no non lo so se ancora era aperta la parte peggiore di Montelupo Fiorentino. Scendendo ancora si arriva in Campania, dove c'è Secondigliano, che è una parte del carcere effettivo di Secondigliano, dove ci hanno spostato provvisoriamente quello che era uno dei posti più orribili insieme, no, era addirittura prima di Montelupo e Fiorentino, perché io l'ho visto quando era ancora aperto, Sant'Eframo a Napoli, e era veramente un carcere del Medioevo, cioè le mura erano il carcere nel Medioevo, come si vedono nei film Monte Cristo, ecco, quelle cose che ci si immagina, che si vedono soltanto nei film, era Sant'Eframo. Lì vidi un signore che poi c'è morto lì dentro, che non parlava, non riusciva neanche a nutrirsi da solo, è morto così, abbandonato in un luogo. E lì è appunto, ora invece finalmente hanno chiuso Sant'Eframo e l'hanno spostato a Secondigliano, dove è l'unico dove c'è un'assistenza sanitaria stranissima, addirittura lì la ASL cambia le lenzuola quotidianamente, quasi in un eccesso di zelo incredibile, perché la ASL accanto, che è sempre in campagna, ma lì siamo all'ospedale psichiatrico di Aversa, sono 18 chilometri, però l'ASL di Aversa ha deciso di non occuparsi, di non farsi carico delle lenzuola e dell'assistenza sanitaria, e c'è Aversa che, io mi ricordo, alla fine degli anni 90 era abbastanza dignitosa, perché c'erano delle villettine, mi ricordo che venivano fatti dei convegni con degli OPG, e era una cosa dignitosa. Dopodiché è andata in degrado completamente anche tutta quella struttura lì, e via via si stanno rifacendo le varie parti, comunque, e fino a scendere in Sicilia, dove c'è Barcellona Pozzo di Gotto. La prima volta che ci siamo entrati come commissione c'era un internato legato ad un letto di contenzione, era un materasso, il letto di quelli infilati a terra che non si possono muovere, il pozzetto per fare scendere i bisogni della persona, il materasso aveva il buco, quindi poteva tranquillamente fare i suoi bisogni senza la possibilità di essere legato con delle fascette, non certo le fascette apposta per la contenzione, quindi il letto era completamente di quelli di ferro, col buco e la persona legata lì. Quando abbiamo chiesto di vedere il registro delle contenzioni, che è il registro che in psichiatria segna il nome del paziente, chi ha ordinato la contenzione, le motivazioni, i controlli via via che vengono fatti, il libro delle contenzioni non c'era, non risultava. E quando abbiamo chiesto per quale motivo la persona era stata legata lì, è venuta fuori una battuta abbastanza di pessimo gusto, cioè, beh, stava dando fastidio, faceva battute un po' piccanti alle infermiere. Fra l'altro diciamo che in Italia di battuti piccanti nei confronti delle donne se ne sentono da tutte le parti, e nessuno credo sia stato legato in un luogo del genere. Quindi ecco, questo è il quadro. Abbiamo preso le immagini, le abbiamo fatte vedere, abbiamo dato fastidio e io ho cercato anche un dialogo, so anche che è stato un problema per molte persone che lavorano dentro gli ospedali psichiatrici giudiziari aver visto quelle immagini, agenti di polizia penitenziaria, psichiatri e quant'altro, infermieri ci hanno detto, beh, io sono tornata a casa e mia moglie, mia figlia mi ha detto, ma tu davvero fai quelle cose lì, tu davvero lavori in quel posto lì. So che è stato difficile accettare di vedere quelle immagini. Io ho cercato di dare come spiegazione che delle volte però dare le botte, dare il cazzotto nello stomaco è l'unico modo, anche creare lo scandalo per in qualche modo poi occuparci e far preoccupare lo Stato intero di quello che stava avvenendo lì dentro. E è stato un modo appunto per coinvolgere dal Presidente della Repubblica in giù ad avere la legge, perché, e chiudo, la domanda era questo: cosa ha fatto la Commissione? La Commissione ha fatto questo, ha fatto un'inchiesta, l'ha fatto vedere. Poi c'è stato il Parlamento con il Governo che ha trovato il modo di fare una legge, di trovare i soldi e di farla finanziaria, e per ultimo appunto di vedere la proroga per non farla entrare in vigore. Allora, nel frattempo salutiamo la dottoressa Antonietta Fiorillo del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ci ha raggiunto. Io darei la parola. Vediamo ancora 5 minuti di riflessione. Io darei la parola adesso a Franco Scarpa. Abbiamo sentito un po' di questo cazzotto. Come stanno andando? Cioè, che cosa è cambiato a questo punto da questa visita, da questa commissione d'inchiesta? Che novità ci sono? Io ripiglio una sola parola, ha detto la ex senatrice Poretti. Soldi. Allora, prima del 1000, anzi attualmente ancora, perché non è cambiato ancora nulla in concreto, i 6 ospedali psichiatrici giudiziari potevano far conto su 23 milioni di euro. Non sono pochi, è vero, però se parliamo di 1500 persone, di strutture di notevole intensità e impegno, di pazienti, di persone con notevole impegno. Di questi 23 milioni di euro, 11 li prendeva Castiglione delle Stiviere. Gli altri 12 se li spartivano, perdonate i termini, ma molto veramente a volte battagliando tra colleghi. Tu hai più persone di me, io ce ne ho di meno, io ce le ho più difficili, tu c'hai gli infermieri di ruolo. Veramente un gioco penoso, una sorta di combattimento tra i galli di... I galli di Renzo Tramaglino, i polli di Renzo Tramaglino. I galli sono già più combattenti e pericolosi e farebbero a volte meglio, fossero stati galli avrebbero becchettato Renzo Tramaglino, mentre noi ci becchettavamo tra noi con questi pochi fondi, portavamo avanti quello che era questa realtà, carcere. Primo Levi diceva, se questo è un uomo, il suo famoso libro sui lager, lager è una parola usatissima nel passato, anche prima del 96, anche prima del 90, 96, è sempre stata una parola associata all'ospedale psichiatrico giudiziario, i lager, gli orrori, l'inferno, ma c'è 30 anni di storia di questo. In questi 30 anni la politica non ha fatto scandali, ma non ha risolto nemmeno i problemi. Nel 2009 la politica decide di risolvere questo problema e io do il mio apprezzamento, e vengono fuori, e ritorno alla parola soldi, 180 milioni di euro per le strutture, quindi guardate che bel salto, più 93 milioni per risorse, eccetera. Per inciso, la spending review ha già fatto un taglietto del 10%. Quella legge di proroga, il decreto legge di proroga, ha fatto un altro curioso taglio che non ho capito. Oggi lo leggevo, ieri l'ho visto il decreto legge, è venuto fuori quest'altro taglio di 4,5 più 1,5, 6 milioni di euro da dare al Ministero della Giustizia. Io non l'ho capito. Lei, senatrice, lei l'ultimo giorno della legislatura l'ha vissuto. Se me lo spiega dopo ne sarei contento. Che cosa significano questi 6 milioni di euro scippati alla salute e dati al Ministero della Giustizia? Lo so, però insomma... ma se però ha notizie sarei contento di averlo. Quindi direi proprio questo il termine, ma non perché noi psichiatri, come dicevo prima, se questo è un uomo, come diceva Primo Levi, noi dovremmo dire se questo è il modo e queste sono le risorse per curare le persone, per fare quello che l'Adriana ha detto, quello che la commissione del Senato ha evidenziato bene. Se questo è il modo con cui si mettono professionisti e pazienti nelle condizioni di esercitare il loro mandato, come ho detto un anno e mezzo fa, io non mi vergogno di aver lavorato a Montelupo, perché con me si dovrebbe vergognare tutta la società, perché per 120 anni ha chiuso gli occhi di fronte a questa realtà. Se il modo per risolvere e creare scandali, e ahimè il nostro paese spesso fa questo, crea scandali per risolvere i problemi, nell'incapacità di risolvere i problemi nella maniera civile, corretta, partecipata. Se questo è il modo, ripeto le parole di Primo Levi, se questo è il modo, ben venga anche questo. Io continuerei a questo punto con la dottoressa Fiorillo, se ci vuol dire due parole, insomma, della... Il Tribunale di Sorveglianza, in questo caso di Firenze, ma insomma ha un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda. Non c'è dubbio. Riprendo alcune sollecitazioni della senatrice Poretti. Tenete conto che gli internati in OPG sono gli ultimi degli ultimi. Gli ultimi sono i carcerati in generale. Io chiamo il carcere, la chiamo galera, perché rende l'idea di quel che è. Allora, la descrizione degli OPG che ha fatto la senatrice Poretti la possiamo sovrapporre con pochissime migliorie, quasi zero, agli istituti di pena di questo paese in questo momento, Sollicciano uno per tutti. Non è che stanno tanto meglio che a Lambrogiana. Ora, devo dire, le condizioni delle carceri ormai sono da molto tempo al di sotto del limite di dignità. Quelle di alcuni OPG io non escludo, dico, su Montelupo ci siamo già incontrati, la dottoressa Poretti, faccio come il dottor Scarpa. Era una delle situazioni, ed è sempre stata una delle situazioni meno peggio, se mi consentite lo scarso, il non italiano perfetto, nel senso che su Montelupo la struttura era quella che è, una villa medicea, ma voglio dire, se andate a Porta Azzurro abbiamo una fortezza spagnola, ma Sollicciano l'hanno fatto nell'80, è molto peggio della fortezza spagnola e della villa medicea dal punto di vista strutturale, perché se per anni non si investe nell'edilizia penitenziaria, si costruiscono carceri che non si aprono perché non ci sono le risorse né materiali né umane, non si rinnova mai, è chiaro che la struttura, nuova o vecchia che sia, decade. In tutto questo però guardiamo al contenuto. Allora, su Montelupo si è sempre cercato di lavorare e devo dire si sta lavorando anche adesso. La chiusura, cosiddetta apertura dell'OPG, è come chi sale e chi scende in politica, è una questione un po' di termini, insomma, e poi dare contenuto a questi termini. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo sostituire queste strutture, ma niente esclude che possano rimanere fisicamente le stesse se le aggiustassero, se le rendessero accettabili, voglio dire. Dobbiamo però inserire dentro qualcosa che fino ad ora non c'è stato. Togliamo quello che è la parte di controllo, togliamo la polizia penitenziaria, sanitarizziamo, come dice la legge. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire buttare dentro risorse. La sanità penitenziaria è passata nel 2008 alla sanità pubblica. Io dico, senza timore di essere smentita, che i detenuti sono curati molto peggio di quando la sanità era in carico al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, perché è un principio di grande civiltà. Ma se non si vuole impegnare per il cittadino detenuto, psichiatrico o non psichiatrico, quello che è la risorsa molto ridotta per la verità in questo periodo per il cittadino libero, stiamo ragionando di niente. Potremo chiudere gli OPG, potremo aprire altre strutture, ammesso che ci si riesca, perché vi dico che in questa regione, che pure è molto attenta alle cose del penitenziario, sono 4 anni che proviamo con la regione a cercare di far partire, indipendentemente dalla entrata in vigore e dalla proroga della legge, lo potremmo fare, perché sapete quanti sono gli internati toscani? 45-50 su quelli che in questo momento sono ristretti a Montelupo, perché in Toscana noi abbiamo internati che vengono dalla Liguria, che vengono dalla Sardegna, che vengono dall'Umbria. E sapete perché non riusciamo a chiudere fisicamente Montelupo aprendo un'altra struttura? Ce ne sono tante dismesse, quindi non avremo grandi problemi. Perché la regione toscana non riesce a restituire gli internati che non sono della regione toscana alle regioni Sardegna, Umbria, che a loro volta non vogliono riprenderseli perché non aprono le strutture. In questo gioco noi potremo, sintetizzo e chiudo se no prendo troppo spazio, possiamo chiudere, aprire, fare una legge, farne un'altra, la sostanza non cambia. Quindi il vero problema di questo paese sulla psichiatria giudiziaria, come sul carcere in generale, è quello di volere investire oppure no. Non ci fermiamo, io mi auguro, lo dico, ma ho qualche timore, non ci fermiamo alla denuncia della Commissione che prorogassero, lo avevo dato per scontato e ho vinto la scommessa, non ci voleva molto, non ci voleva la palla di vetro, vediamo quanto dureranno queste proroghe, altrimenti avrà fatto un ottimo lavoro, insomma apprezzabile, ma devo dire fine a se stesso, gli internati continueranno a rimanere dove stanno. Se sono a Montelupo sono più fortunati di qualche altra struttura, forse, perché per pura, voglio dire, situazioni contingenti, ecco, variabili, la regione toscana probabilmente è più attenta di quanto non siano altre regioni. Allora, Niccolò Trevisan, mi sembra che il centro anche sia proprio la sanità, cioè che cosa avviene se queste persone malate vengono curate o semplicemente internate in dei carceri che poi prendono dei nomi differenti. Ecco, c'è una che lavoro bisogna fare in poche parole, e soprattutto la questione personale, non personale, professionale che serve in queste strutture, come viene risolta, come potremmo risolverla? Mi sembra una domanda molto difficile. Comunque, io posso riportare la mia esperienza, che è sia di terapeuta ma anche di consulente, e consulente d'ufficio e consulente di parte. Ho letto la storia di una persona, non mi ricordo bene se era di Aversa, che era stata internata perché era stato trovato a graffiare ripetutamente le macchine. Mi sembra un anno fa sono stato chiamato da un avvocato, perché io prendo incarichi anche dagli avvocati, che mi chiedeva di garantire una consulenza per una persona che aveva lo stesso problema. C'era stato, era stato registrato da varie telecamere in dei parcheggi a sfregiare queste auto. Era una persona grave, cioè aveva un problema psicopatologico molto grave. Non prendeva nessuna terapia, non era seguito. Lo psichiatra del centro di salute mentale aveva completamente sbagliato la diagnosi e l'aggancio. Allora, questa persona, io mi sono dovuto confrontare con un consulente d'ufficio che era molto rigoroso, che mi aveva subito allarmato e ha detto: guarda, c'è il rischio che questo sia pericoloso, cioè che recidivi il reato. Allora io mi sono imboccato le maniche e ho ricucito tutti i rapporti di questa persona con la famiglia, con un nuovo psichiatra del territorio, ho garantito che prendesse la terapia, ci ho messo la faccia, ho scritto, ho mandato i documenti al consulente d'ufficio e il giudice ha accettato il programma terapeutico. Cioè la persona non è stata giudicata pericolosa, benché incapace di intendere e di volere al momento dell'atto. Vi dirò di più, ci sono anche, come dire, delle partite aperte tra me e Franco su dei casi. Cioè lui mi dice: guarda, questa persona che segui prima o poi arriverà a Montelupo, però finora, diciamo, quelli che seguo io non gli sono mai arrivati. Allora, come mai? E come mai da altre parti questa cosa non succede? Cioè, forse c'è anche un problema di psichiatria, cioè di terapia, perché questi sono malati particolari, non sono malati comuni. Gli psichiatri evidentemente non conoscono certi sintomi molto gravi, non sanno che cos'è una percezione delirante, schizofrenica, non sanno cos'è il manierismo. Ora, io mi manca un po' la voce, però questo è veramente un problema, e se non si sa fare la diagnosi, se per esempio non si sa cos'è l'anaffettività, non si fa la cura, e questi pazienti, che sono già molto gravi, rischiano di commettere degli atti anche contro la loro volontà, che sono cataclismatici della loro identità e dell'identità altrui. Perché chi ha il diabete, anche un diabete cronico, non fa male a nessuno. Certi malati, purtroppo sono un piccolo numero, ma ci sono, possono fare dei grossi danni. Allora, c'è anche un problema, secondo me, di cultura. Come vengono fatte le diagnosi? forensi. Penso che se cito la sentenza Raso, il dottor Scarpa mi conosce, la conosce benissimo, probabilmente la conosce anche la dottoressa, però è una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25 marzo 2005, in cui si parla di qual è la causa della malattia per, come dire, il magistrato. Allora, viene proposto il modello biopsicosociale. Poi però, quando si dice le cause psicologiche della malattia, quali sono? Beh, le cause psicologiche sono dovute al traboccare dell'inconscio, della realtà inconscia della persona sulla coscienza. Cioè siamo fermi a 100 anni fa. Questa è una teoria freudiana che è completamente sbagliata, perché il malato perde l'inconscio, soprattutto quando commette un reato. Allora, se siamo ancora 100 anni indietro per quanto riguarda la terapia psichiatrica, forse anche per quanto riguarda la gestione complessa e difficilissima di questi pazienti, siamo, come dire, 100 anni indietro. Allora, adeguiamoci a certe conoscenze della psichiatria. Per esempio, il concetto di anaffettività, gli psichiatri non lo conoscono, il concetto fagioliano di anaffettività non c'è. Potrei chiederlo a chiunque in questa sala, sono sicuro che non avrei risposte. Faccio un po' il paranoico, ma insomma, gli psichiatri ogni tanto lo sono. Infatti Scarpa non lo conosce. Comunque è anche un problema di cultura, e certi concetti nuovi della psichiatria devono entrare anche nella cultura giuridica, perché gli psichiatri hanno dei nuovi strumenti per curare e per garantire alle persone che hanno necessità un percorso diverso. Adriano. Siamo riusciti ad avere l'applauso, quindi si vede che è colpito. Ci trarrei un po' le conclusioni a questo punto, sì. E passo a te la parola. Hai sentito, hai fatto il tuo viaggio e ce l'ho raccontato nel libro. Oggi abbiamo sentito le parole degli ospiti e, insomma, cercherei un attimo di capire da te. Sì, ma guarda, devo dire che, insomma, proprio per prenderla come una chiacchierata, è interessante, no? Perché quando scrivi un libro, di solito fai un viaggio, appunto io mi muovo un po' da cronista, no? L'ho scritto anche nella prefazione, facendo piccoli passi per capire, andando a vedere, che credo sia il mestiere più umile per un cronista, però forse anche quello più interessante, per non partire con una tesi precostituita. Poi c'è la parte successiva, cioè che è quella relativa appunto alle presentazioni del libro, e quello è un altro viaggio, ancora più interessante, perché durante le presentazioni del libro incontri poi persone diverse, coinvolgi appunto figure professionali diverse, e questa è la prima volta che noi, per esempio, questa credo sia la quarta, quinta presentazione un po' in giro per l'Italia, anche se il libro è uscito soltanto il 9 marzo, però è la prima volta che ho un magistrato di sorveglianza, e quindi è una figura per me preziosa, perché il magistrato di sorveglianza era quello snodo che io nel libro cercavo di far capire da non addetta ai lavori, che ha un ruolo delicatissimo, perché è quella persona che poi può dire a un certo punto, anche sulla base delle perizie, no, questa persona può uscire perché tutto sommato sta meglio, ma quella persona può uscire anche perché, diciamo la verità, c'è una struttura alternativa disponibile sul territorio o non c'è. E quindi qui ritorniamo al punto di partenza, no? Perché dice, sai, i magistrati di sorveglianza sono cattivi perché non li fanno uscire. Io mi ricordo che, insomma, sono tornata un paio di volte, per esempio, ad Aversa, e ad Aversa io ho avuto quindi un paio di colloqui con una persona, diciamo, interessantissima, perché questo peraltro era uno psichiatra che si era ammalato, e tant'è che la stampa, riferendo proprio dell'episodio, insomma, di cui lui era stato protagonista, cioè lui aveva ucciso un altro psichiatra che lo aveva sottoposto a una serie di trattamenti sanitari obbligatori perché si era già reso conto della condizione psichica in cui lo versava, questa persona poi con una balestra appunto ha ucciso questo psichiatra, si è dato alla fuga, poi insomma è stato fermato, ed è interessante perché no, lo psichiatra killer, questo è stato chiamato. Allora, quando io l'ho incontrato la prima volta, lui mi raccontò che da qualche tempo all'interno di Aversa il medico che si occupava di lui aveva detto che tutto sommato stava meglio, quindi poteva uscire, però il magistrato di sorveglianza non l'aveva fatto uscire, ora era in attesa di capire se il magistrato di sorveglianza ce la faceva a farlo uscire. Insomma, il problema qual era alla fine? Questa persona stava e sta meglio, credo che peraltro sia uscito, perché nell'arco di tempo in cui ho avuto modo di scrivere il libro, però bisognava trovare una struttura sul territorio di appartenenza, perché lui era abruzzese. Allora, in realtà la legge Marino, chiamiamola appunto legge Marino perché è frutto del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta, ha stabilito un paio di cose che non so se avete detto quando io mi sono allontanato un minuto, che forse per chiarezza sarebbe bene ricordare, e cioè ha detto sostanzialmente questo. Le persone che stanno, allora ci sono persone che non dovrebbero proprio stare all'interno di queste strutture, no, quelle che appunto veramente per ingiustizia palese, quelle le dobbiamo far uscire, quelle subito devono uscire, no? Quindi i magistrati si devono assolutamente preoccupare di questo. Dopodiché anche per quelle persone si tratterà di capire chi se ne fa carico, perché evidentemente se stavano lì è perché appunto la società in qualche modo le ha respinte. Poi ci sono le persone che stanno meglio e quelle appunto devono essere affidate ai servizi territoriali, e non tutti i servizi territoriali, lo dicevo appunto all'inizio, hanno la capacità di penetrazione e di e l'approccio terapeutico e i mezzi e i fondi e le risorse per fare quello che mi pare tutto sommato si stia facendo in Toscana, no? Dove quindi siamo, insomma, la sanità toscana ha già un'eccellenza. Quelli che stanno peggio, cioè i malati psichiatrici gravi, devono andare in strutture territoriali, quindi costruite sul territorio in ogni regione, e piccole strutture territoriali in grado di accogliere non più di 20 persone, questo è importante, con una sorveglianza che non si è capito bene, perimetrale, non per, eventualmente. Allora, io non lo dicevo l'altra volta anche nella presentazione che abbiamo fatto a Roma con il senatore Marino, a me quello che preoccupa sinceramente non è tanto la proroga, perché quella la davamo un po' tutti per scontata, anche perché la legge aveva una tabella di marcia inverosimile, come sottolinea soprattutto Beppe Nese dalla Campania, cioè non si può arrivare a costruire strutture sul territorio quando il decreto che stabilisce la distribuzione dei fondi alle regioni è stato approvato a febbraio. Sì, vabbè, però diciamo che già la tabella era un po', però diciamo era una tabella ottimistica, questo non è una colpa, non ne faccio una colpa a nessuno, anzi va bene, secondo me, cioè diciamo una commissione parlamentare d'inchiesta è una legge che tra virgolette dà una speranza laica, no? Di un ottimismo, cioè a me va benissimo, insomma se poi si fa la corsa, arrivano i muratori, costruiscono le strutture oppure rimettono in funzione parti di strutture magari abbandonate, ma magari, cioè, ci mancherebbe, quindi non è che qualcuno voleva dire la tabella di marcia è inverosimile e quindi è un fallimento, no, però di fatto era inverosimile, quindi quello che mi preoccupa non è tanto la proroga di un anno, mi preoccupa, e questo insomma lo sottolineano anche un po' gli addetti ai lavori, che con questa proroga in realtà si pensi anche non solo a costruire le strutture, ma a destinare questi fondi anche alla formazione del personale che deve lavorare all'interno di queste strutture, perché a mio parere, e questo lo sottolineava molto bene Trevisan, c'è una carenza di cultura psichiatrica in questo paese, e questo è un po' un argomento tabù, cioè uno dei motivi per cui poco si è fatto, secondo me, anche sugli ospedali psichiatrici giudiziari, è che poi in realtà quando si va a parlare di psichiatria, cioè la psichiatria è molto divisa, no? La psichiatria è molto divisa. Allora c'è persino chi, perché questo lo dobbiamo dire, ha criticato il senatore Marino dicendo che voler costruire delle strutture nelle quali inserire questi malati gravi e quindi comunque istituzionalizzare la malattia anche se in strutture piccole è grave di per sé, perché la malattia non dovrebbe essere istituzionalizzata. Allora, cioè, se siamo, no, perché questo cioè quando poi entriamo veramente, no, nei meandri del dibattito, cioè arriviamo anche a questo, cioè arriviamo anche a persone che appunto dicono no, non si può costruire la struttura, perché no, l'istituzionalizzazione significa costruire il piccolo manicomio, come no, assolutamente io non voglio chiudere qua, anzi se c'è qualche domanda. La grande ipocrisia di questo paese, la grande grande ipocrisia secondo me di questo paese, parlando molto chiaramente, è che con la legge Basaglia, sacrosanta, si è abolita la malattia mentale, non si sono aboliti i manicomi. Allora il rischio grosso è questo, che l'abolizione, cioè non facciamo lo stesso errore, in realtà sul territorio le strutture non ci sono. I manicomi, chiamiamoli per quel che sono, giudiziari, prendono ancora gente perché i servizi sul territorio spessissimo non sono in grado, non hanno voglia di contenere. Ci sono famiglie che hanno subito sulla loro pelle, voglio dire, l'avere, e subiscono tuttora l'avere situazioni di patologia psichiatrica non curata. Allora, la legge Basaglia, ripeto, è stata sacrosanta perché era una vergogna tenere i manicomi civili in quelle condizioni, ma non voleva significare che poi si dovessero lasciare le persone con problematiche psichiatriche abbandonate a se stesso o alle famiglie. Chi non commette reati resta sul territorio. Molti commettono reati anche minimali, tipo questi, dopodiché entrano in un circuito da cui spesso non escono perché sul territorio non c'è la struttura. Quindi il circuito è veramente avvitato su se stesso, ma c'è una grande, ripeto, ipocrisia di fondo che ci trasciniamo dietro da decenni. Non vorrei che succedesse questo ulteriormente con gli ospedali psichiatrici giudiziari, no? Perciò dicevo, apriamo, chiudiamo, è questione di intendersi, dobbiamo fare cose diverse, dobbiamo fare nuove strutture, possono essere anche vecchie, riadattate, voglio dire, è il contenuto che deve cambiare, è quello che dobbiamo cercare di rendere utile, come però dovremmo aver già fatto sul territorio per chi per sua fortuna ancora non ha commesso un reato. Scusi, ma no, io cioè mi sembra che concordiamo sul fatto che il problema è non solo il contenitore ma anche il contenuto, insomma, no, di quello che è, dell'argomento che stiamo affrontando. Se quindi un anno, visto che abbiamo avuto, c'è stata questa proroga di un anno, vabbè, necessaria, non necessaria, insomma mi sembra necessaria, se quindi un anno serve anche a destinare una parte di questi 180 milioni che, appunto, come diceva il dottor Scarpa, sono già diminuiti, comunque serve a destinare una parte di questi fondi anche alla formazione degli psichiatri e anche appunto alla creazione di nuovi psichiatri, perché io mi domando come mai, no, perché adesso questi poveri, dico poveri però passatemi il termine, se no sembra che io sto prendendo le parti degli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi le prendo sempre prendete con le molle quando dico poveri, però se all'interno di un ospedale psichiatrico giudiziario c'è uno psichiatra per 150 pazienti ci sarà un motivo. Cioè, evidentemente non ci sono psichiatri? Evidentemente non ci sono psichiatri che vogliono lavorare all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari? Non ci sono psichiatri sufficienti sul territorio? Non c'è una formazione? Cioè, ce lo dobbiamo chiedere, perché altrimenti il rischio è che costruiamo strutture e poi ci ritroviamo appunto in una carenza di cultura psichiatrica e di quindi terapia e di cura, che mi sembra il problema più grave da affrontare. Altrimenti il lavoro della Commissione Marino rischierebbe di diventare un lavoro vano. Io credo che il senatore Marino questo non lo voglia. Io non è che voglio fare l'avvocato difensore del senatore Marino, ma faccio l'avvocato di me stessa, perché ho lavorato nella commissione e difendo il lavoro, che non è soltanto di dire chiudiamo gli ospedali psichiatrici giudiziari e poi famo come la legge Basaglia. Ricordo che la legge Basaglia, che ha avuto origine dopo una battaglia dei radicali, i radicali, in quel momento c'era Marco Pannella in Parlamento, non l'ha votata per un motivo banale, che è quello che non aveva i finanziamenti. Perché le leggi si fanno se c'hanno i soldi e le gambe su cui camminare. Siccome quei soldi non c'erano e non venivano trovati, perché per paura di arrivare al referendum fu fatta in fretta e furia, senza trovargli la copertura, Pannella non la votò. No, faccio questo esempio per dire che sì, i bei principi e le belle parole, poi se non c'hanno le gambe su cui camminare, rimangono così eteree, anzi si trasformano in dei problemi, perché gli OPG va da sé che sono l'ultima scappatoia di sistemi territoriali che non funzionano. Moltissimi finiscono lì perché non sono assistiti, stati assistiti prima, e perché non vengono assistiti, perché non sanno dove buttarli e le buttare. Io l'ho chiamata la discarica sociale e carcere, gli OPG la discarica della discarica, perché è il peggio, è veramente il peggio del peggio. Però ecco, per ritornare a fare la difesa del mio pur minimo operato, probabilmente io avrei fatto anche altro, ma comunque come quello della commissione, è che, anche perché poi ciascuno si assume le proprie responsabilità anche delle azioni che fa, non è che si è detto semplicemente li chiudiamo nel sapete che c'è, sono brutti, avete visto quanto sono brutti, e facciamo una legge in cui scriviamo che il 1 aprile sono chiusi. No, abbiamo detto allora ma entro aprile del 2012 il Ministro della Salute fa un bel decreto in cui detta una serie di requisiti per stabilire che ciascuna regione intanto si riprende i suoi, perché Montelupo non chiuda, come suggeriva sosteneva prima il magistrato, perché a Montelupo gravitano anche i sardi e la Sardegna non ha alcuna intenzione di riprendersi i suoi, gravitano anche il bacino di Montelupo è Liguria, Sardegna e Umbria. Poi ce n'è un po' di altri, ma sono veramente pochi che non fanno testo, esatto, e sono una quarantina i toscani. Allora la Toscana in qualche modo di 40 persone sarebbe in grado forse di farsene carico senza tenere in piedi una struttura come quella che è Montelupo Fiorentino. 40 persone, 5 ad Arezzo, 5 a Pisa, 5 a Livorno, 10 a Firenze, insomma, basterebbero degli appartamenti in alcuni casi, con un minimo di attenzione da parte del posto di polizia casomai più vicino, visto che in alcuni casi devono essere tenuti così sotto osservanza, ma non ci vorrebbe niente di più. E la legge diceva, tanto ciascuna regione si riprende i suoi, anche per riavvicinarli al territorio, per iniziare questa operazione di reinserimento. E nel decreto del Ministero della Salute dovevano anche dettare dei requisiti per queste nuove strutture o vecchie da riadattare e quant'altro. Aprile 2012 il decreto c'era, era scritto, è rimasto in conferenza Stato-Regioni fino a novembre, perché poi appunto le regioni erano quelle che se le dovevano riprendere. Sono rimasti lì a limare queste strutture, come devono essere, di chi devono essere. Il problema non so. L'amministrazione penitenziaria non voleva più esercitare funzioni di controllo. Esatto. Chi il controlla? Servizio sanitario mi sembra logico che non abbia funzioni di sorveglianza. Esatto. Il decreto controlla? È rimasto fermo 5 mesi perché nessuno vi rendete conto vuole che si sta parlando la responsabilità di un decreto 5 mesi del ci ha messo. Ora, quindi, la legge dettava tempi bisogna stretti. Dire qual è il motivo. Ok, ma si poteva risolvere forse in qualche un pochino più rapidamente. Chi li dovrà controllare dall'esterno? Allora teniamo tutto in piedi, se nessuno si assume la responsabilità no, chi no, deve no, controllare. No, senatrice Poretti, no, non è questo. Quello che io dicevo prima non era per dire che la Commissione avesse fatto. Il problema è cosa si farà di questa legge, cioè qual è l'intenzione vera dello Stato, perché poi ci deve mettere, voglio dire, lo Stato attraverso le regioni ci deve mettere il suo impegno, e soprattutto ci sono delle cose che dobbiamo comprendere, per esempio quella della sorveglianza. In più, diceva prima Adriana Panitteri, e io condivido, diciamo anche questo per essere come al solito molto laici e anche molto, come devo dire, trasparenti e molto liberi. Ci sarà, e lo dico da magistrato che da più di 30 anni si occupa di carcere e non solo, anche di minori, ma insomma di carcere essenzialmente, ci sarà uno zoccolo duro che resterà con la pericolosità, che non si potrà mettere nell'appartamento, che comunque avrà necessità di essere curato ovviamente, ma anche di essere in qualche modo contenuto. Il discorso per esempio della vigilanza, chi la fa, con quali modalità, le tre armi, voglio dire, vediamo cosa faranno, perché io su questa è una delle cose su cui potrebbe cadere in concreto la legge, perché considerando come si muovono normalmente la polizia penitenziaria, ben volentieri si libera di strutture come queste che assorbono uomini, ma come, se succede, faccio una banale ipotesi, se succede qualcosa all'interno, può succedere al di là di qualunque impegno, eccetera. Cioè, ma io capisco il passaggio che sia tutto è molto difficile, difficile, ma ci rendiamo conto che in Italia soprattutto credo che ci voglia Castiglione un impegno vero dello Stato, capito, ma però, senatrice sì, Poletti? Ma c'è un impegno vero, però ci si mette a tavolino e si stabilisce, si può anche andare per approssimazione, si sbaglia e si ricambia, ma in Italia abbiamo avuto Castiglione delle Stiviere senza neanche un vigilantes. Eh? E ha funzionato. Questa è un'altra delle cose che secondo me i cittadini devono sapere. Anche nelle carceri ordinarie abbiamo delle eccellenze, Volterra, Bollate, ma sulle centinaia di istituti il carcere non è fatto da Volterra e dal suo teatro e da Bollate e la sua cooperativa agricola, come l'OPG non era fatto da Castiglione, perché abbiamo visto quando si danno i soldi si funziona come Castiglione. Esatto. Ma i soldi si davano solo a Castiglione. E allora potevamo, e bisogna darli a tutti, questo è lo Stato che vorrà fare. Scusi, però noi avevamo trovato 120 milioni e dico avevamo, no, non ci, perché alla fine i soldi vanno via, ragazzi, ma siamo in un momento in cui l'economia è quella che è. Allora noi si stabiliscono che ci sono 120 milioni da spendere nell'anno 2012 per strutture e personale, 38 milioni per attività e programmi. 2012, siamo nel 2013 e va da sé che quei soldi non si sono spesi, si saranno accantonati, la spending review ne ha tolti un po', quell'altro ne toglie un po'. Io credo che alla fine di questi meravigliosi 158 milioni che in maniera miracolosa avevamo trovato, io non lo so se continueranno a essere lì disponibili, speriamo sì, però appunto come si dice che vi stia sperando, nell'anno 2013 115 milioni, siamo già alla fine siamo ad aprile, e quindi un bel po' di mesi già ce li siamo giocati, e anche di questi 115 milioni che dovevano andare alle strutture, al personale, alle attività, ai programmi, alle comunità e quant'altro, noi di tutti questi soldi, io dico, ho fatto l'esempio prima della Basaglia che Pannella non votò perché non c'aveva i soldi, noi incredibilmente in un periodo economico come questo eravamo riusciti a trovare i soldi e siamo riusciti a trovare il modo per non spenderli. E allora il problema non è solo che mancavano i soldi, il problema credo che sia anche altro. Poi ci possiamo dilaniare, è la polizia penitenziaria che deve controllare, devono essere tutte controllate, qualcuno finirà in dei reparti psichiatri all'interno delle carceri che saranno orribili, ma potremmo anche immaginare anche cose del genere, non lo so, voglio dire, sarà la questura, spetterà ai carabinieri la sorveglianza, spetterà al vigilante che non c'è di Castiglione delle Stiviere. Aspetterà chissà che, però se li vogliamo chiudere qualcosa dobbiamo immaginarsi, aspettare che dall'alto arrivi una soluzione meravigliosa con la bacchetta magica che faccia scomparire gli OPG, i matti e l'assistenza territoriale a un certo punto diventi meravigliosa. D'accordo con lei che il mio tribunale impone nei provvedimenti in cui mettiamo fuori le persone che o l'interno comunque ci dice che poi, noi stiamo mandando gli atti alle procure, o minacciamo prima, quando il territorio di appartenenza non ci indica e non ce lo prende. Quindi voglio dire, ci comprendiamo perfettamente, però i problemi sono quelli reali, perché ancora abbiamo prorogato. Io questo ve lo chiedo. Cioè, ma servisse la proroga per la soluzione? Un giro di chiusura finale. Sì, direi che possiamo chiudere, sì, perché così ci rasseriniamo un po' tutti. Possiamo già... Sì. Comincio io, così poi mi si può dire tutto dopo. No, semplicemente, davvero, ora dibattito, si parla, ci si diciamo un sacco di cose, va bene, però da domani, per un anno, noi avremo gli stessi problemi. Io, i miei colleghi che per anni, diciamo sì, ci siamo spaccati l'anima nel convincere i servizi, il territorio, nell'offrire, credo, anche un lavoro dignitoso ai pazienti, alle persone che sono state in quell'istituto. E poi dare delle soluzioni ai magistrati, perché non dimentichiamo che la soluzione finale la dà il magistrato con le ordinanze, con le modifiche della misura di sicurezza. Il problema è proprio questo: da domani, dal primo aprile anche, ma già da domani saremo di nuovo punti a capo, staremo a discutere con gli stessi problemi, con le poche risorse, con le notevoli difficoltà e responsabilità che si hanno. Su questo lo devo dire, io nel libro avevo detto sono ottimista, i problemi si risolveranno, ma lo sono ottimista perché credo che se ne dica, le regioni hanno lavorato nei limiti di quella che non si, guardate, io non si può dimenticare, noi non possiamo ignorare in Italia come il denaro pubblico si deve spendere. Certo, pensare che in un anno si spendano 180 milioni, abbiamo visto, non me ne intendo, però tutte le volte che il nostro paese ha nominato dei commissari per spendere subito i soldi è stato un disastro. Io non vorrei mai che ci sia un commissario unico per spendere questi soldi e per fare queste strutture, sarebbe credo un disastro unico. Quindi da domani ci saremo punti a capo, ci dovremo dare da fare, cercheremo di risolvere questi problemi per i pazienti, con i pazienti. Questa è il nostro stato, la nostra filosofia di lavoro, questa continuerà ad essere. Una parola sulla formazione. Quando ho conosciuto Franco sono andato all'OPG e c'era sul suo tavolo una pila gigantesca di perizie che mi dette da studiare per la mia tesi di laurea. Erano perizie degli anni 80, anni 90 e i periti che le avevano firmati erano dentisti, urologi, ginecologi. Una cosa assurda, insomma, quindi significa che le persone che hanno mandato i pazienti nell'OPG non erano specialisti in psichiatria. Questo è un problema non da poco. Secondo problema è che chi invia un paziente in OPG non ha la minima capacità di curare un paziente. Franco, penso che non mi può smentire se dico che i periti italiani scrivono perizie, inviano l'OPG e non curano un paziente. Quindi chi scrive le perizie, chi manda dentro l'OPG non sa fare terapia 99 su 100. Quindi c'è un problema di formazione enorme. E c'è un problema anche di formazione sia degli operatori sanitari che degli operatori penitenziari, che comunque sono persone gravemente esposte a certe situazioni. Quindi la formazione è fondamentale. Un'altra parola per la capacità di cura che deve essere superiore rispetto ai pazienti psichiatrici normali, che non commettono reati. D'accordo? Quindi la cura esiste, cerchiamo di non far arrivare certi malati a delle complicanze che sono gravissime. Sarebbe come far durare a un paziente che ha l'ipertensione farlo arrivare all'ictus, all'infarto. È la stessa cosa, si tratta sempre di malattia. E la malattia c'ha un decorso, c'ha una prognosi e c'ha delle complicazioni. Lo stesso vale per la malattia, diciamo, biologica, clinica, lo stesso vale per la malattia psichiatrica, d'accordo? Quindi anche gli psichiatri si devono rimboccare le maniche, penso. Bene, io diamo la chiusura di questo dibattito, poi è diventato un dibattito oltre che una presentazione. Abbiamo visto quanto La pazzia dimenticata, questo libro pubblicato dall'Asino d'Oro, scritto da Adriana Panditteri, questo viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari abbia interesse, che poi travalica anche il semplice soggetto, perché poi si incontrano problemi di ogni giorno, di politica, di situazioni, di leggi, di governo, insomma, è ben più ampia di quello che potevamo immaginare. A voi resta di prenderlo, leggerlo, portarvelo a casa e poi magari continuare la discussione anche con Adriana. E ora il compito invece di fare un bel applauso a tutti i presenti che sono stati qui e vi hanno spiegato quello che queste pagine portano con sé. Grazie a tutti dell'attenzione, Adriana è qui, se volete, insomma, se volete vi firmerà le copie del libro.